regina con un re, non avrei bisogno di lavorare. Ma che dici? Sei fatta per suonare. Sei un vero asso. Sì, e con un grande cuore. Chidi, non darci picche. Se mi dite così, va finire che io attacco. Ho visto un re carello, te darei ragione, non so come te. Ho visto un re che mangiava fiori qua di cavaliere, e c'era un fante bello ed elefante, con la sua donna facevano due cuori. C'era un fante ricco di denari, senza cavallo, ma era un rubacuori. E di suo re che non ha regina, ma se ti è bello che più bello non ce n'è. Ma per fortuna ci sei, mi manco come te, e non è bastata, non ce n'è. Facevano due cuori, li regalava un mazzoli di cuori, e diceva: vieni con me. Ho visto un re carino, dare ragione a un su come te. Ho visto